Questo è Ukulele Musica e Cultura sui 103.1 e io sono così emozionata, super emozionata, perché prima vi raccontavo che non sarei stata sola in realtà per tutte le due ore di diretta, perché qua con me sono arrivate le nostre ospiti, ci sono Marzia e Ilaria delle Faxia. Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Ciao! Bene, e prima ve lo dicevo in fuori diretta che voi siete le mie prime ospiti, perché causa pandemia purtroppo le interviste le abbiamo per lo più organizzate telefonicamente, quindi per me c'è la doppia emozione di avere della gente qui con me in diretta e per presentare questo nuovo progetto. Quindi io inizierei subito così, lanciatissime. Abbiamo parlato e nominato le Faxia. Che cosa sono le Faxia? Chi sono le Faxia? Allora, le Faxia sono tre streghe post-contemporanee che si sono incontrate in questa giungla urbana, diciamo nella situazione che tutte noi conosciamo, perché il lockdown è alle spalle da poco, per cui sappiamo bene di cosa stiamo parlando. E noi eravamo comunque già da tempo molto amiche, anche colleghe di palcoscenico, perché comunque io e Poppy abbiamo lavorato insieme con gli Ola Urlo per tanti anni, una band a cui insomma magari parte della città di Bologna sarà anche affezionata. E poi invece Mariana, che era la voce dei Da Dietro, un'altra band post-punk, elettro, clash e quant'altro, era stata ospite da noi a Elastico. Per cui praticamente noi comunque già molto in maniera cioè molto anche esplicita c'era una stima che da tempo era palese, e durante il lockdown ci siamo sentite per fondamentalmente farci sentire, cioè reciprocamente avere parere sulle nostre tracce, perché io stavo lavorando a delle mie cose, Poppy lavorava ad altro e Mariana anche, quindi ci stavamo mandando questi pezzi per avere dei pareri proprio tra compagne, tra colleghe, no? di potenziometri, di strumenti, di musica. E nel condividere tutto ciò è nato proprio l'entusiasmo nel dire: Mari, ma questa traccia spacca, oppure Poppy, no Marzia, sto testo è fichissimo, ma scusa, perché non facciamo qualcosa insieme? Quindi da lì è nata proprio l'idea di sopperire a questo vuoto cosmico che è un po' la pandemia ha generato in tutto il comparto musicale e anche umano, proprio a 360 gradi. Abbiamo appunto poi deciso di riempire questo vuoto con questo progetto, quindi ci siamo unite a distanza, perché Mari è a Venezia, Poppy è in Salento e io sono a Bologna. Sì, un trio un po' sparso per da tutte le parti. E domani, tra l'altro, quindi diamo come anticipazione che ci saranno in esclusiva, in anteprima, alcune delle tracce dell'album che uscirà poi ad ottobre, giusto? Esatto, l'album esce ad ottobre. E domani invece uscirà il singolo con Sense. Singolo prodotto, quindi diciamo avete lavorato anche con l'Elastico Records, un'etichetta, è stata la prima etichetta in Italia fondata e gestita da donne e identità queer. Ora ti faccio una domanda che è molto ampia, nel senso che questa mi sembra comunque una scelta politica, anche quella di rivolgersi a lavoratrici, compagne, amiche o comunque chi gestisce queste cose, perché comunque la scelta di non rivolgersi comunque a un'etichetta mainstream o comunque gestita da maschi, o nella maggior parte anche maschi etero e cis, mi sembra una scelta politica. Ora ti chiedo innanzitutto se è vera questa cosa e in che modo poi allora la politica poi rientra anche nel lavoro che poi proponete e che andate a fare nella musica. Beh, noi, cioè io in particolar modo, a differenza poi di Mari e Poppy, che hanno un percorso molto più antagonista dal punto di vista musicale, mentre io ho fatto un percorso da questo punto di vista più tradizionale, anche se faccio pop elettronico, comunque come solista ho sempre pubblicato dischi con etichette indipendenti gestite appunto da uomini etero, cis e tutta la... E questo comunque per me è sempre stato... Inizialmente magari non mi accorgevo nemmeno di tutta una serie di dinamiche però più cresceva anche la mia coscienza politica e più capivo quanto in realtà era arrivato il momento di non soltanto essere portavoce di determinate tematiche su un palco, ma addirittura proprio di muovere una determinata realtà, quindi stando dall'altro lato. E poi noi abbiamo anche nel tempo ho conosciuto tantissime realtà e sono davvero poche le realtà appunto discografiche gestite da donne. Le donne le rendono più ricche, le rendono migliori, ma alla fine il capo è sempre l'uomo, cioè in un certo senso quello che prende poi le decisioni o che comunque ha una voce più imponente nella direzione artistica della label è quasi sempre, cioè quasi sempre un uomo, è quasi sempre. Per cui ecco, è nata proprio la voglia di lanciare il progetto Faxia a partire proprio già da una piccola rivoluzione in nostra e provare anche a lanciare contemporaneamente la storia di questa etichetta che ha come missione quella di cercare, promuovere e produrre band composte principalmente da donne o comunque da persone gender fluid o not binary o quindi è una missione diciamo ad ampio raggio, che sicuramente è politica ma non è separata dalla nostra vita, perché noi amiamo considerarci attiviste, cioè nel senso portiamo l'attivismo all'interno del nostro linguaggio, del nostro processo creativo e artistico. Ci arriva un messaggino che è per voi ragazze, dice: grandissime Faxia, super streghe, vi aspettiamo presto al Tank. E qua già spoiler, perché allora con questo assist vi chiedo quali sono le prossime date. Sì, le prossime date sono il 9 di ottobre, ci sarà un concerto al Torchiera di Milano, sarà una serata dedicata a Ricky, che è stato il compagno di Mariana nella vita e anche artisticamente, faceva appunto parte da dietro, è mancato un anno fa. E la seconda data sarà quella di Bologna al Tank, appunto il 23 ottobre, e siamo appunto in contatto con le ragazze da diverso tempo, eravamo in piena estate quando abbiamo fissato questa data, siamo molto emozionate, molto contente di fare fondamentalmente la prima data in un club, perché le Faxia si sono esibite il primo concerto, la data zero diciamo, è stata il 31 di luglio al Malafem Festival, che è stata una data bellissima. Anche il Torchiera sarà comunque una data in un luogo occupato, e il Tank invece è appunto la prima possibilità, la prima uscita pubblica in un locale, in un club da cui comunque non si suona almeno da un anno e mezzo, quasi due. Quindi siamo emozionate un po' anche, ma non sappiamo cosa ci aspetta. Ci aspetta, perché c'è comunque qua la modalità appunto in Italia dei concerti sedute. Ma con le fax saranno sedie che volano. Esatto. Le sedie salteranno dal pavimento, perché comunque vabbè, lo sentiamo, cioè il progetto è un progetto super carico, le musiche sono basiche, costruite principalmente da Poppy, che ha appunto sono 150 BPM, 150 BPM. Diciamolo. Sì, insomma, pensarlo seduti si fa un po' fatica, sedute. Tra l'altro, c'è c'è stato di recente Cosmo che ha scritto una lettera a Bonaccini e la Slane per comunque dire almeno a Bologna provate a muovervi in diciamo come dire anteprima rispetto a tutto il resto d'Italia, visto che comunque Bologna è sempre stata una città avanguardista diciamo, perché fondamentalmente c'è il vaccino, c'è il Green Pass, ci sono i tamponi, però non si capisce per quale motivo si debba stare in Italia soltanto perché in Europa, nel resto d'Europa col tampone si può entrare e far serata, ci sono anche appunto riscontri per cui non ci sono dei contagi durante queste serate, per cui non si capisce perché invece qua ci sia invece questa questa voglia, questo desiderio di placarci. Fondamentalmente la frase che da tanto citiamo in tutte le manifestazioni a cui partecipiamo, abbiamo partecipato nel tempo, è: se non ballo non è la mia rivoluzione. E mai come ora questa è appunto una frase che sento mia, sentiamo nostra. Abbiamo ancora qualche minuto per le ultime domande. Prima parlavamo un po' della gestione dei concerti, della musica dal vivo, e spiegavate come le sedie dei prossimi concerti, dei concerti delle Faxia, voleranno, e saranno delle sedie volanti, nel senso che sarà effettivamente difficile stare fermi a un vostro concerto. Ma dall'altra parte invece vi chiedo, da sopra al palco, come è vissuta questa situazione, che è davvero, credo, non lo so, inedita per tutto lo scenario del mondo musicale. Beh, sì, devo fare un distinguo, perché per esempio io ho anche un progetto cantautorale solista in cui comunque al centro della sua natura c'è il testo, la storia, la narrazione, per cui quest'estate ho fatto diversi concerti in cui c'erano posti a sedere, addirittura gente che comunque aveva prenotato e mangiava. È stato abbastanza triste per me, nel senso che solitamente mi piace instaurare una relazione anche quasi simbiotica con il pubblico, perché è uno scambio davvero reciproco e ogni concerto è diverso a seconda della reazione del pubblico. Però è stata anche una prova di incredibile capacità di riuscire comunque a mantenere alta l'attenzione nonostante il contesto fosse complesso. Faxia è un progetto completamente diverso, noi facciamo comunque una techno contaminata con l'IBM, la psichedelia, quindi è un progetto in cui il corpo ha praticamente l'80% è il protagonista principale, i nostri corpi, i vostri corpi, e quindi il corpo è fondamentalmente un veicolo di emozioni ma anche di comunicazione. Tenerlo fermo, represso, seduto è intrinsecamente contraddittorio all'obiettivo che Faxia ha, quello proprio di liberare tutta una serie di emozioni, anche di pensieri attraverso il corpo, la danza, il ballo, il movimento, il contatto. Per cui non sapremo come sarà, non sapremo cosa ci aspetterà, sarà difficile, però è come chiedere per noi di andare al cinema bendati, cioè. Sì. No, posso solo appunto immaginare, cioè, anche la frustrazione, perché appunto c'è, cioè, dietro anche a tutta questa musica ci sono dei progetti, e queste progettualità funzionano anche dal momento in cui, appunto, se una caratteristica, un elemento imprescindibile è il corpo, comunque la fisicità, viene a mancare quella, poi di conseguenza penso che anche un po' il progetto venga un po' anche stravolto. Quindi dovremo aspettare di fatto per... Di sicuro non faremo tutti i brani in acustico, questo è un elemento. Ragazze, io vi ringrazio, siamo arrivate purtroppo alla fine di questa mezz'ora. Noi ci vedremo sicuramente al Tank live, anche io sarò quella che salterà sulle sedie probabilmente. Bene. E niente, insieme. Ancora grazie e alla prossima. Grazie a te, a tutte. Consenso.